Giorno di borsa, Meazza e Rosciani si sono i due di denari. Meazza finita, la pioggia ci parla e ci sparla dell'IVA e così il dolce sorriso di Deborah nei loro pensieri ora c'è. Sono i due di denari e ci fan pensare e un po' risparmiare. E pensan sempre a noi. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Walking in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. La tata Francesca, ma quanto l'abbiamo amata e quanto la amiamo. Io ogni tanto, quando ripropongono gli episodi di questa serie, me li gusto perché mi è molto simpatica. Guarda, noi più modestamente con i Chapter 11 avevamo fatto la tata del risparmio, avevamo sentito un po' di signore che si occupano di educazione finanziaria in Italia. È vero. Ma invece qui, la notizia che abbiamo... Parliamo di una tata vera, né un'attrice né una finanziaria, ecco. No, infatti è proprio una tata biellese, sì? Biellese dei Mongrando. Sì. Si chiama Elena Gremmo, ha sì. 26 anni, è in gara per diventare la miglior babysitter d'America. Grandissima, noi facciamo il tifo per lei. Devi sapere che in America c'è un concorso, si chiama Cultural Care Au Pair, cioè praticamente la cura culturale delle ragazze alla pari, da ragazze alla pari, e un programma che consente a ragazzi di tutto il mondo di lavorare 1-2 anni alla pari, appunto facendo parte della famiglia ospitante. È vero. Lei si trova a Charlotte, non so quale sarà la pronuncia più corretta, è nel North Carolina, a casa della famiglia Strager, e deve badare a un bimbo di 3 anni. È stata la sua famiglia americana a candidarla al concorso ed è tra le 14 finaliste, quindi siamo lì tra non proprio le top 10, ma quasi, insomma, nelle top 14. Ci sarà tempo fino al 17 gennaio, il verdetto finale è nelle mani del web, non sappiamo indicarvi qual è esatto. Il sito di votazione. Chissà, ma se possiamo votarla anche noi, magari cercheremo un modo per poterlo fare. Dai, ora ci proviamo. Convochiamo tutti gli amici americani, magari, e segnaliamo che c'è questa iniziativa, tutti gli italo-americani magari potranno votarla. Il tema di oggi invece, ritorneremo sulle nostre consuete conflittualità odierne con le società di telecomunicazione, perché c'è una notizia che riguarda le famose ricariche che non si possono più fare a prezzo pieno, ma ci sono delle novità e adesso ve le segnaleremo. Per quello che riguarda poi il tema portante di Due di Denari di questa mattina, ritorneremo sul diritto di famiglia alla luce della novità di cui vi abbiamo anticipato qualcosa ad inizio settimana. Allora, separazione o divorzio, come sapete è sempre molto difficile quantificare l'assegno di mantenimento, soprattutto se non si riesce a ricostruire la situazione economica dei coniugi che vogliono diventare ex. E allora, siccome adesso è più facile accedere ai conti dell'ex, l'avvocato Giorgio Vaccaro ci dice tutto quello che è necessario sapere su questo e soprattutto quali sono poi le implicazioni proprio per le separazioni relative a questa doppia decisione del Consiglio di Stato, se non mi ricordo male. Brava, come è stato riferito sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa. Bene. Se avete cose da raccontarci, chiederci, segnalarci, potete utilizzare i canali abituali 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 se volete mandarci un messaggio SMS oppure WhatsApp. Quindi ex coniugi e trasparenza dei conti in qualche modo per l'ex, quindi non ci si può nascondere di fronte alle richieste di accertare qual è la reale disponibilità economica dell'ex coniuge. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, ce lo spiegherà l'avvocato Vaccaro tra poco. Ma prima di tutto ciò, cara Debora, è il nostro consueto appuntamento con Giornale Radio del Risparmio. Debora Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. L'inverno è solo e stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. Eh sì, in queste stagioni un po' anomale, effettivamente un po' il freddo è ritornato in questi giorni. Oggi sono di nuovo un pochino più dolci le temperature su Milano, ma in ogni caso non è la previsione del tempo che vogliamo fare questa mattina, ma parlare della popolazione che non può permettersi di riscaldare a sufficienza la propria abitazione. Il 14% della popolazione italiana non ha le risorse economiche sufficienti appunto per riscaldare la propria casa, ed è una percentuale doppia rispetto alla media europea, che è di poco superiore al 7%, anche se, come per molti altri indicatori, la media nasconde fortissime differenze fra Stato e Stato. Basti pensare che questa percentuale sale addirittura al 34% in Bulgaria e scende a circa il 2% nei paesi del Nord Europa. E pensate che fra i paesi più in difficoltà ci sono anche Portogallo e Grecia. I dati sono stati diffusi da Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, e questo appunto è un tema molto delicato, perché ci consente, Mauro, di ritornare a dare un'informazione per noi molto preziosa, sulla quale raccomandiamo la massima attenzione molto spesso. Sì, allora, si tratta del bonus per l'energia elettrica e il gas, che è un bonus disponibile. Basta collegarsi con il sito di ARERA, che è l'agenzia appunto per l'energia elettrica e il gas, www.arera.it. Se avete un ISEE ridotto, basso, insomma, se siete in condizioni di difficoltà economica, potete accedere a questo bonus. Continuiamo a dirlo perché ARERA stessa, cioè l'autorità, ci segnala che l'erogazione di questo bonus è inferiore a quello che si stima, cioè alla quantità di persone che ne hanno bisogno, e peraltro da quest'anno è stato anche innalzato il livello di ISEE di riferimento. Quindi www.arera.it per chi è in difficoltà economiche può ottenere, quindi può avere diritto a questo bonus sulle bollette dell'energia elettrica e del gas. Ritorniamo ancora una volta sulle vicende, le conseguenze della situazione molto nebulosa e difficoltosa nella quale si trova in questo momento la Banca Popolare di Bari, commissariata appunto in dicembre. E allora, come sapete, vivono un momentaccio azionisti ed obbligazionisti di questa banca. Ieri, sulla base delle indicazioni fornite in audizione al Parlamento dal presidente della Consob Savona, per gli azionisti davvero ormai si sarebbe disegnata la conseguenza più nefasta di questo dissesto, cioè l'azzeramento del proprio capitale. Stamattina molti giornali riportano di nuovo di tutte le associazioni che starebbero seguendo le vicende di questi risparmiatori teoricamente appunto azzerati, con molte venature anche polemiche, perché in molti contestano il fatto che le associazioni di rappresentanza debbano essere pagate per portare avanti le istanze di queste persone. Adesso noi non prendiamo una posizione su questo, però insomma, per chi fa un lavoro per conto di altri non si capisce per quale motivo non debba essere pagato, anche se poi teoricamente rispetto magari ad un'assistenza legale piena le cifre che devono essere riconosciute a queste associazioni sono molto inferiori. Detto questo, abbiamo appreso dalle pagine del Sole 24 Ore, ce lo racconta molto bene a pagina 3 Federica Pezzatti, della storia, della vicenda di un risparmiatore azionista della banca che a più riprese avrebbe comprato azioni della Popolare di Bari per un ammontare intorno ai 350.000 euro, e praticamente il giudice Nicola Magaletti della quarta sezione civile del Tribunale di Bari ha rigettato la domanda che questo risparmiatore aveva fatto di risarcimento di tutto questo importo, che era stata avanzata appunto dal suo legale, e non solo ha rigettato appunto la richiesta di indennizzo, ma addirittura lo ha anche condannato a pagare le spese legali per aver imbastito appunto tutta l'iniziativa, 18.000 euro. Ora, tutto questo è successo prima che la banca venisse commissariata in dicembre, quindi è abbastanza anche possibile immaginare che adesso il primo grado possa essere radicalmente rivisto appunto in appello, come indica Federica Pezzatti, ma in ogni caso lo vedremo. Ma questo che cosa ci dice? Che non sempre, quando intraprendiamo un'iniziativa legale, nel caso ci sentiamo danneggiati dal punto di vista del nostro appunto risparmio, possiamo appunto avere ragione. Quindi attenzione anche a coinvolgere un legale a distruggere un procedimento di questo tipo, perché non è detto che sia scontato che un tribunale ci dia ragione. Seguiremo di nuovo da vicino questa vicenda. Mauro. Allora, cara Deborah, io andrei senza por tempo in mezzo alla vicenda che riguarda le ricariche telefoniche. Molto volentieri. Perché, vabbè, sono un po', diciamo, una delle nostre passioni qui a Due di Denari, occuparci delle ricariche telefoniche. Siamo dei depravati, lo sappiamo. Ma insomma, ognuno ha le sue fissazioni, noi abbiamo questa delle ricariche telefoniche. Allora, che è successo? È successo che a fine dicembre l'Agicom, cioè l'autorità garante delle comunicazioni, ha pubblicato un documento nel quale ha invitato gli operatori telefonici che offrono ricariche speciali da 5 e 10 euro a bloccare la loro prassi e ripristinare la situazione precedente. Perché? Cos'era successo? Che uno pagava 5 euro ma ricaricava per 4, pagava 10 euro, ricaricava per 9. Insomma, una percentuale discutibile, direi. Beh, insomma, chiedere il 20% sulla, sulla transazione mi sembrava un po' esagerato. L'euro che restava veniva poi usato per attivare promozioni, bonus, eccetera. L'autorità garante ha stabilito che gli operatori non avevano il diritto di fare questa sostituzione di ricariche standard con queste ricariche cosiddette speciali e quindi dovevano ritornare allo status precedente. Per farci spiegare e confermare tutto ciò abbiamo in collegamento Enrico Maria Cotugno, che è vice direttore alla direzione tutela consumatori proprio all'autorità garante per le garanzie delle comunicazioni. Buongiorno, benvenuto a Due Denari. Grazie, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e a Deborah Rosciani. Allora, come prima cosa le chiedo conferma se il riassunto che abbiamo presentato è corretto, quindi non accadrà più, non sta più accadendo che ci vengano chieste queste ricariche per cui uno paga 5 euro ma in realtà ricarica solo per 4? No, le ricariche potrebbero comunque rimanere, questo tipo di ricariche speciali. L'importante, ed è questo che l'autorità ha diffidato gli operatori a fare, è che ci sia l'alternativa senza ricarica. Quindi se l'utente va dal tabaccaio e chiede 5 euro, in automatico gli verrà fornita la ricarica da 5 euro standard. Poi se quella persona ha invece interesse alla ricarica special, dovrà chiedere ricarica special C4+1. Che sarebbe questa ricarica in cui quell'euro lì con i servizi aggiuntivi, esatto, viene dato con altri servizi. Servizi che poi ogni operatore può definire a suo piacimento, mi sembra di capire. Cioè non c'è uno standard su questo. Sì, appunto. Quindi per noi l'importante è che l'utente, soprattutto quello con minore capacità di spesa, e quindi non può andare oltre una ricarica da 10 euro, sia costretto per questo motivo a ricaricare 9 euro più di servizi speciali. Quindi attenzione a quello che, se utilizziamo queste ricariche di piccolo taglio, per così dire, attenzione a quello che ritiriamo, insomma, che non si, come sono riconoscibili queste ricariche di tipo special? Hanno una qualche dicitura? Appunto, si chiamano giga ricarica, ricarica special, ricarica più. Quindi l'importante è che l'utente che va dal tabaccaio sappia che dal 19 di gennaio in poi avrà diritto ad avere la ricarica completa, quindi a pagare 5 euro, a pagare 10 euro, ma a ricevere in cambio 5 euro di ricarica e 10 euro di ricarica. Dottor Cotugno, il provvedimento con cui avete rivolto questo invito alle compagnie di telecomunicazioni è appunto un invito agli operatori telefonici a modificare il loro comportamento, quindi non si è trattato di un'iniziativa in qualche maniera sanzionatoria? No, non è un cortese invito, è una diffida. Ah, ecco, quindi, ci spieghi un po' la natura. Se non si adeguano, esatto, poi ci saranno i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Certo, senta, per i consumatori che eventualmente si accorgano che la prassi da seguire non è così, tra virgolette, facile come lei ce l'ha spiegata, cioè chiedere la carta standard o quella special, che cosa devono fare? Possono segnalare ancora a voi comportamenti commercialmente non corretti? Possono segnalarlo direttamente a noi, possono segnalarlo anche all'associazione di consumatori. Ecco, forse è il caso di dirlo, questo procedimento è nato dalle segnalazioni delle associazioni di consumatori che ci hanno appunto in forza comunicato questa prassi, tant'è vero che poi l'intervento è stato praticamente immediato. Stiamo parlando di manovre di ottobre e novembre e a dicembre l'autorità è già intervenuta. Quindi insomma nulla toglie ad una compagnia di praticare questa offerta, l'importante è che venga comunicata con grande chiarezza al consumatore che chiede una ricarica. Vuoi quella da 5 euro pieno o vuoi quella da 4 euro più 1 e questo 1 è rappresentato da un'offerta aggiuntiva al servizio? Perfetto, l'importante è che ci sia l'alternativa. Certo. Allora, tra l'altro c'è un ascoltatore che scrive: io questa cosa sulle ricariche non la capisco, forse il 20% è troppo, però bisogna pagare anche la stampa della carta della ricarica, importo per tabacchino, e quando compri la pizza il cartone non è mica gratis, se lo paghi per i telefoni non capisco la differenza. Ma io adesso non vorrei fare i conti in tasca agli operatori telefonici, ma immagino che in quei 5 euro abbiano calcolato anche questo tipo di costi, non so. Sull'economia di scala. Probabilmente l'operatore telefonico ci sta comodo sui 5 euro di ricarica, penso. Ma vedi, i 5 euro di ricarica sono neutri, perché sono 5 euro che vanno poi a pagare il tipo di abbonamento che il tipo di offerta che uno ha, e che poi è fatta, ognuno sceglie quella che è più comoda per lui, quindi 5 euro in sé sono neutri, mentre invece 4 euro più 1 è un servizio che è precostituito dall'operatore e non è detto che sia poi di interesse dell'utente. Ecco perché insisto sul punto. L'importante è l'alternativa, quindi che chi ha poca disponibilità economica non sia costretto, proprio per questa poca disponibilità, a prendersi qualcosa di cui non ha bisogno. Dottor Cotugno, un'ultima domanda prima di salutarla: ma perché la nostra vita con le compagnie di telecomunicazione è diventata così complicata? Perché è un mondo ferocemente competitivo, perché le offerte sono tante, pur di strapparsi i clienti, ovviamente le società, come in tutti i campi, praticano offerte di ogni tipo a costo di diventare anche un po' sgradevoli nel comportamento. Che percezione avete lì all'Agicom? Guardi, io non posso esprimere quello che è il pensiero dell'Agicom, non sono titolato a farlo. Sicuramente posso citare un dato che è sotto gli occhi di tutti, è quello che ha detto anche lei, la competizione in questo momento è agguerritissima, e quindi questo è un segnale positivo per gli utenti, significa che hanno più libertà di scelta e i prezzi sono tra i più bassi d'Europa, quindi sicuramente il lavoro che dovevamo fare come autorità ha portato a risultati eccezionali. Adesso tutto sta a vigilare a che questa varietà di scelta e questi prezzi così competitivi poi non inducano qualche operatore a delle manovre poco trasparenti. Certo. Dottor Cotugno, guardi, io volevo salutarla, ma in realtà arriva orora una domanda di un ascoltatore che peraltro si chiama Mauro, e quindi gliela vorrei fare. Allora, noi stiamo continuando a parlare di ricariche cartacee, quelle che si possono comprare dal tabaccaio in cartoleria. No, allora chiariamoci, non stiamo parlando delle ricariche, quelle delle scratch card, così noi stiamo parlando della ricarica, quella fatta con il POS. Quindi anche quella online, chiede Mauro? Per esempio, dipende, sa che spesso per online, quelle fatte sui siti degli operatori, no, dipende dagli operatori. Ma quelle che, per cui si va dal tabaccaio, ad esempio, sicuramente e si dice voglio ricaricare questo numero di X euro, che è una prassi che si fa abitualmente, insomma, queste qui sono quelle su cui bisogna avere la possibilità di scelta, ho compreso bene? Allora no, la possibilità di scelta noi l'abbiamo imposta a prescindere dal canale di vendita. Proprio perché i tre operatori interessati non hanno fatto tutti la stessa cosa. C'è chi l'unico fattor comune sono i tabaccai o comunque le edicole, i punti di vendita con quel tipo di circuito di pagamento. Poi alcuni l'hanno eliminate anche dai punti di vendita aziendali, cioè dai negozi aziendali. Altri l'hanno eliminate dal sito web. Quindi per essere sicuri di coprire il 100% delle ipotesi, noi abbiamo imposto, a prescindere dal canale di vendita, l'alternativa tra ricarica standard e ricarica speciale. Ricarica speciale, ricarica più, ricarica giga, qualche cosa, esatto. Insomma. Però dov'è che il pericolo è maggiore, secondo noi? È proprio dal tabaccaio o dall'edicola. Perché se io vado sul sito, io leggo ricarica special e capisco cosa sto prendendo. Il rischio invece nei punti vendita, quelli più prossimi al cittadino, è che l'utente non sa cos'è ricarica special, ricarica giga, eccetera, eccetera. Lui va e chiede 5 euro di ricarica, poi torna a casa e se ha l'accortezza di leggere lo scontrino che gli hanno dato, si accorge che invece ha ricevuto 4 euro più un servizio aggiuntivo. Certo. Ecco perché è più pericoloso questo canale di vendita, perché l'utente solo dopo si accorge di quello che ha ricevuto. Quindi il canale di vendita cosiddetto fisico è quello più soggetto, certo, anche per la frettolosità dell'acquisto, probabilmente. È la buona fede. E soprattutto è quello più utilizzato dalle persone anziane. Esatto, tra l'altro le persone Eros, che non hanno dimestichezza con l'app o con internet. Eros da Verona ci chiede: possibile sapere in che percentuale la gente va ancora dal tabaccaio per la ricarica? Noi questa percentuale non la conosciamo. Di fatto, a me, se capita di andare per acquisti di altro tipo, io ne incontro sempre una persona che comunque sta facendo questa operazione. Quindi evidentemente poi sono ancora in molti. Adesso io ho parlato dei tabaccai, ma giustamente dove tu non vai Cotugno, più da tempo, ovviamente il dottor Cotugno Cotugno, noi ci andiamo solo per il caffè. Ho sospeso, diciamo così. No, ma il dottor Cotugno giustamente diceva: questa cosa si può fare nelle edicole, si può fare nei negozi, esatto. Forse anche nei supermercati, mi pare, no, Cotugno? Certo. Quindi certo, cioè, è una prassi abbastanza capillare, ecco, per dir così. Sì. Bene, grazie dottor Cotugno per essere stato con noi. La ridisturberemo presto. Da una parte speriamo di no, perché noi vorremmo che il mondo, il nostro rapporto con le compagnie di telecomunicazione, appunto, diventasse più tranquillo, disteso e sempre molto chiaro, però non si sa mai, magari ci risentiremo presto. Buona giornata e grazie. Grazie a voi, arrivederci, a presto. Dillo a due di denari. Buongiorno, vi confermo che ho dovuto pagare le tasse per affitti non ricevuti per un anno e mezzo di una persona che non voleva andarsene nel mio appartamento, nonostante che non ha pagato praticamente per un anno e mezzo l'affitto. Io ci ho pagato le tasse lo stesso. Sono andato all'Agenzia delle Entrate e l'impiegato mi ha detto: la prossima volta si scelga un inquilino più affidabile. Complimentoni a tutti. Cara Debora, purtroppo ti devo dire che questa prassi di tassare anche affitti non incassati è una prassi che è certo. Così da anni. Fisco presume che tu li incassi. Il fisco presume che tu li incassi o che li incasserai in qualche modo, poiché gli affitti dovrebbero essere registrati. Sì, dovrebbero e i pagamenti magari fatti anche con delle modalità tracciabili. Quando uno li registra indica anche l'importo del canone che dovrebbe essere quello effettivamente percepito. Stamattina. No, io dico così, insomma, sto auspicando delle condizioni. Il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Un pochino sì. E allora, dati tutte queste cose, che succede? Succede che il fisco fa un conto e dice: va bene, allora secondo noi tu prenderai questi soldi. Non li prendi perché il signore non ti paga più? Vabbè, evidentemente avrai attivato delle procedure di sfratto, eccetera. E il fisco qui fa finta però di non sapere che per un inquilino moroso, intervenire su un inquilino moroso ci vuole tanto tanto tempo. Ma non è la cosa più così sconcertante, se vuoi, perché ci aveva sconcertato anche la circostanza che tu puoi come dire detrarre, cioè avere uno sconto dalle tasse, dall'IRPEF, sì, per molte cose, ma non per l'assegno di mantenimento ai figli. E già su questo chiaramente avremo modo di conversare a lungo con il nostro ospite di questa mattina. Non è il tema portante per cui abbiamo scelto di richiamarlo, ma non mancheremo di chiedergli chiarimenti anche su questo. Io devo fare la borsa, però lo saluterei perché ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo momento. L'avvocato Giorgio Vaccaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori. Cassazionista, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, non solo, e peraltro ha creato anche questo suo bel sito che si chiama La mia famiglia è complicata, dove racconta tutte le vicende che gli capita di seguire anche nel suo studio legale. Si occupa soprattutto di coppie che si separano e di tutti i problemi che derivano dalle separazioni. Avvocato Vaccaro, le dobbiamo chiedere però un attimino di pazienza, perché alle 11.30 che cosa fischia l'arbitro? L'arbitro fischia le borse. Cugna non ho letto. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroën. Rifugiati in un'oasi di salute e benessere immersa nel verde. Aspria Arbor Club Milano. Pensato per te e la tua famiglia. Dove rilassarti e fare il pieno di energia. Scopri la nostra offerta di soddisfazione in 90 giorni su aspria.com. Air France. France. La France is in the air. Fino al 27 gennaio lasciati tentare da Saint Martin in economy da 549 euro. Con le nostre offerte oh là là, scopri il mondo a prezzi vantaggiosi. Oh là là, ma che fai ancora là? Air France. France. La France is in the air. Acquista fino al 27 gennaio per voli dal 15 gennaio al 21 luglio e dal 16 agosto al 30 novembre 2020. Tariffa andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Info su airfrance.it. Due di denari. I like a lonely road, the only one that I have ever known. È una bella domanda per il dottor Vaccaro. Se poi la controparte che vuol vedere i conti correnti, no? Si accorge che questo poveretto non sa più un agiscono per dargli una mano, o se ce ne sono tanti si succhia più che si può, e se non ce ne sono, arrivederci e grazie. Effettivamente noi la questione l'abbiamo posta in maniera forse un po' diversa, nel senso immaginando che si vogliano andare a controllare i conti dell'ex per cercare di quantificare in maniera migliore, più alta rispetto alle aspettative, appunto l'assegno di mantenimento. Può succedere però anche di fare una verifica che ti faccia scoprire qualcosa di diverso, no? Beh, certo, però credo che la prassi, diciamo, nella maggioranza dei casi, ma chiedo conferma al dottor Vaccaro, si cerchi di nascondere qualche cosa piuttosto che di non renderlo trasparente, anche perché la trasparenza, se uno ha meno di quello che si pensi, dovrebbe essere invece premiante. Dottor Vaccaro, qual è la sua esperienza su questo punto? Beh, molto semplice. Nella realtà, quando ci si incontra davanti a un giudice per una separazione, per un divorzio, la parte che astrattamente dovrebbe essere onerata di pagare un assegno ai figli o al coniuge più debole sarà il primo interessato a depositare dei conti che fanno vedere una situazione di rosso. Per cui non esiste che io vada a fare un accertamento e scopro che ha meno denaro, perché ci avrà già pensato lui a dire che non ha per nulla denaro. L'accertamento del quale noi stiamo parlando e la novità che stiamo così sottolineando questa mattina è stata la deposito da parte del Consiglio di Stato di due sentenze molto interessanti che hanno superato un ostacolo che prima esisteva, cioè quello dell'essere previamente autorizzati dal giudice della separazione e del divorzio. Il Consiglio di Stato ha affermato invece che è diritto del coniuge accedere, col diritto di accesso che è riconosciuto da una legge ormai storica, ai conti e quindi alla banca dati, all'anagrafe tributaria, per poter verificare la situazione del proprio marito o della propria moglie. Accesso che non rende necessaria per nessuna preventiva autorizzazione da parte di nessuna autorità. Sono due canali distinti e separati. Il giudice della separazione e del divorzio fa le sue indagini, dispone gli accertamenti che vuole disporre, e il cittadino, e quindi il coniuge, ha il diritto di poter autonomamente chiedere all'anagrafe tributaria i dati fiscali del coniuge. Quelli, attenzione, contenuti nell'anagrafe tributaria, che ricordo è costituita da tutte le informazioni che i soggetti e gli enti obbligati alla comunicazione all'anagrafe fanno. Traduco ancora più semplicemente: noi tutti abbiamo un codice fiscale che normalmente usiamo per fare delle operazioni economiche e finanziarie. Gli operatori, gli enti rispetto ai quali noi movimentiamo il nostro denaro, hanno poi l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria i movimenti del nostro codice fiscale. Quindi poi, se qualcosa è finito in un paradiso fiscale, diciamo, lì non abbiamo possibilità di accedere a quelle informazioni, è un po' più difficile. Però funziona un po' come, diciamo, quasi come il redditometro, perché se invece le operazioni sono avvenute in Italia, per capirci, risultano, lo so, l'acquisto di una macchina sportiva di particolare pregio dovrebbe, esatto, risultare da questo tipo di verifica. Soprattutto anche un'altra cosa, risultano quei conti correnti che sono sconosciuti al coniuge, che sono stati aperti successivamente alla separazione, dei quali il soggetto titolare non ha denunciato la presenza nel processo della separazione. È questa la parte interessante. Considerate che tutto il processo di famiglia si sviluppa su un principio importante, che è quello della tutela dei figli della coppia. Ognuno può fare i risparmi che vuole, io difendo tanto le mogli quanto i mariti, quindi conosco sia l'una parte che l'altra delle realtà, ma rispetto ai figli il tribunale ha l'obbligo e come primo il principio di dover applicare un assegno che sia coerente con i redditi di tutti e due i genitori. Quindi nascondere al tribunale, nel momento della separazione e nel momento del divorzio, i propri redditi, significa togliere e danneggiare i propri figli. Ecco perché c'è tanto interesse rispetto a questi accertamenti. Tra l'altro volevo segnalare anche i numeri delle due sentenze del Consiglio di Stato, delle quali stiamo parlando questa mattina, per tutti gli appassionati di riferimenti legislativi e giuridici precisi, la 5345 e la 5347. Esattamente. Allora, avvocato Vaccaro, peraltro, ma lei le capita di dover affrontare ancora molte situazioni per le quali stabilire un assegno di mantenimento, appunto, soprattutto quando ci sono figli da mantenere, la quantificazione risulta difficile proprio perché non c'è grande chiarezza nella comunicazione delle condizioni reddituali reciproche, soprattutto dalla parte di chi deve poi erogare l'assegno, e generalmente sappiamo appunto che tocca prevalentemente all'ex coniuge uomo? Sì, c'è ancora molta difficoltà, ma è una difficoltà che ritengo non cesserà mai, perché è collegata ed è connessa alla chiusura di una precedente realtà di vita. Per quanto i figli esistano, chi in qualche modo si avventura in una vita diversa, superando quella precedente con l'ex coniuge, ha tutto l'interesse a fare i risparmi per permettersi poi una vita successiva che sia sufficientemente adeguata per lui stesso. Dichiarare tutto è sempre molto difficile ed è una cosa che non capita quasi mai. Ecco perché gli strumenti per poter fare gli accertamenti sono gli strumenti più importanti. Considerate dall'altra parte che viceversa il fatto che si nascondano importanti flussi finanziari che girano su conti correnti sconosciuti priva i figli di una stabilità e di una capacità di poter accedere a tutto quello che essere figli di quella coppia gli avrebbe potuto consentire. Quindi il nucleo della dinamica polemica del processo della separazione è legato ancora oggi allo svelamento della situazione reddituale sia del marito che della moglie. Ecco, non voglio fare l'avvocato del diavolo, specialmente con un avvocato. Fai solo il diavolo tu. Se riesce benissimo. fino diciamo alla famosa sentenza Grilli, cosiddetta, sì. Quella insomma che ha detto, traduco malamente, più sentenze successive, ma insomma hanno stabilito che l'ex coniuge, anche se economicamente più debole, però vediamo se in realtà non è proprio in grado di lavorare, mantenersi, avere comunque una sua attività economica soddisfacente. Ecco, fino a quel punto lì, spesso quello che si temeva era essere gravati, per l'ex coniuge più abbiente, diciamo così, essere gravati da obblighi di assegni molto molto pesanti, tanto che appunto sappiamo di casi di cronaca di gente che si è ritrovata anche indigente per queste decisioni. Prego, avvocato. No, dicevo, sicuramente questo è vero, considerate che la sentenza Grilli, questa che noi chiamiamo la sentenza del giudice Lamorgese, ha tolto di mezzo il riferimento al tenore di vita, sì, che è un concetto di civiltà giuridica, cioè non è possibile pensare al tenore di vita del 1980, periodo del mio matrimonio, quando siamo nel 2010 e io sto vivendo una vita completamente diversa. Il legare il vecchio assegno di separazione, divorzio, di separazione alla tenore di vita, perché adesso anche l'assegno separativo sta seguendo questo filone, è un qualche cosa che non ha veramente più senso. L'assegno divorzile è scollegato, il tenore di vita è andato in cantina. Quello che è rimasto importante come punto di riferimento delle Sezioni Unite sull'assegno divorzile, questo è l'argomento del quale stiamo parlando, è l'aver dedicato il coniuge più debole la propria vita alla famiglia e ai figli. In quel momento, una volta che uno riesce a dimostrare questo tipo di impegno, viene riconosciuto ancora oggi l'assegno divorzile. Mi soffermerei sul tema della necessità di dimostrarlo, perché questo mette in una condizione molto complicata molte donne che in realtà fanno molta fatica a ricostruire questa parte della loro vita nella quale hanno dato un contributo che non è stato concreto, materiale e appunto economico alla famiglia, ma è stato di un'altra natura, ma che comunque va quantificato dal punto di vista economico. Immaginate in che situazione si trovano appunto molte donne, anche se è forse giusto appunto che stare al passo con i tempi significa anche accettare poi queste disposizioni giuridiche, avvocato. Vede, la cosa è molto tecnica, nel senso che chi fa una domanda davanti a un giudice ha l'onere di doverla dimostrare. Questa è una regola processuale, diciamo, di civiltà. Non posso dire faccio una domanda e quindi mi viene garantito pregiudizialmente il fatto che io abbia ragione. Io faccio una domanda di qualunque natura, dal confine alla locazione, alla qualunque materia, lo devo dimostrare l'aver diritto. Quindi l'onere della prova, così viene chiamato in termini tecnici, è sulle spalle della persona che fa la domanda. Mm-hmm. Ora, ecco perché il processo della famiglia è un processo che ha bisogno di avvocati esperti. Riuscire a dimostrare che la mia vita per 20 anni precedenti è stata dedicata alla famiglia, per le casalinghe è in re ipsa, cioè io sono a casa, ho svolto quel tipo di attività ed è sicuramente un qualche cosa che ancora oggi mi garantisce. Il problema è la misura di questo assegno. Certo, ecco perché diventa importante la possibilità che l'avvocato della parte che ha diritto ad avere questo assegno possa richiedere direttamente all'anagrafe tributaria i dati dei movimenti della banca dell'anagrafe tributaria rispetto al marito, perché a quel punto si gioca a carte scoperte. Ma in ogni caso, anche se sei stata una casalinga e hai dedicato tutta la tua vita alla famiglia, non è detto che l'assegno di mantenimento che ti viene riconosciuto sia quello che tu hai in testa, perché perché il giudice può stabilire qualcosa di diverso, soprattutto se sei una casalinga che ha liberamente deciso di fare questo tipo di vita e ha lasciato magari una laurea nel cassetto e non l'hai utilizzata per darti anche una soddisfazione. Oggi come oggi con la sentenza delle sezioni unite siamo un pochino più tranquilli. Sì, certo, senso, sì, però non darei per scontato. La scelta di fare la casalinga è una scelta condivisa e quindi posso scontare questo periodo a mio favore. Fermo lì, avvocato, perché adesso ci alleggeriamo l'animo con il nostro momento poetico del venerdì. La privacy sarebbe quel riserbo che ognun dovrebbe avere sempre pronto, non tanto per mostrarsi più superbo, ma per non rimanere come un tonto se altri si piglia password o altro verbo che schiude accesso del bancario conto. Però imparammo oggi che più in serbo non si potrà occultar saldo ed acconto, né altro fiscale o tributario dato, se a chiedere è l'ex coniuge in giudizio che il prima amato ben vuole sul lastrico. Diede conferma il consigliere di Stato che trasparenza impose e non per sfizio. Così dei conti altrui si fece traffico. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Due di denari. Mi spiace contraddire quello che sta dicendo il professionista che sta parlando, ma se non c'è un provvedimento del giudice, che quindi è il giudice che li acquisisce direttamente, l'altro coniuge viene informato della richiesta che è stata fatta per accedere ai propri dati e ha diritto di veto. Quindi se l'altro coniuge nega il diritto all'accesso ai dati, non si può ottenere nulla dall'Agenzia delle Entrate. Quindi occorre necessariamente, se non c'è il consenso di entrambi, che il giudice emette un provvedimento diretto per l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria. Avvocato Vaccaro, questa convinzione di questo ascoltatore è stata superata dalle due sentenze del Consiglio di Stato. Stata superata ed ecco perché sono importanti. Nella realtà già dal 2014, con la prima sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato, questo discorso era stato chiarito. Perché il Consiglio di Stato ha sottolineato un aspetto importante, e gli accertamenti che si possono poi versare nel processo della famiglia hanno come loro numi tutelari il diritto dei figli, e quindi il disvelamento delle situazioni reddituali ha, rispetto alla privacy, un elemento più forte. La privacy di uno dei due coniugi rispetto all'altro cede il campo alla necessità di tutelare il diritto dei figli. Certo. Quindi questo tipo di ragionamento per cui il giudice deve dare un'autorizzazione esisterà, perché ci sono dei giudici che non leggono le sentenze, non si informano, ritengono che liberamente possono superare quello che è il principio di diritto affermato del Consiglio di Stato, ma però poi ci sono gli avvocati, esatto, che portano queste sentenze magari in appelli vari. Oppure magari anche Radio 24 che lo dice. A proposito di gente che ci riferisce cose, un ascoltatore ci scrive: la mia ex moglie ha avuto accesso al mio conto contributivo INPS. Io da parte mia vorrei verificare se lei percepisce il reddito di cittadinanza, però il call center al quale ho chiesto cosa dovevo presentare, quale istanza dovevo fare, il call center dell'INPS mi ha risposto picche e dice: ma allora che succede? Io devo essere trasparente e invece la mia ex moglie della mia ex moglie non posso sapere se percepisce o no il reddito di cittadinanza? Beh certo, come se io volessi chiamare l'INPS per chiedergli delle informazioni su un'altra persona, magari è il call center dell'INPS che non può fornire questa informazione, ma facendo quale tipo di istruttoria, avvocato Vaccaro, possiamo accedere a queste informazioni sull'ex? Chiedendolo direttamente al giudice. Ah ecco. E il giudice... In quel senso il giudice ha la facoltà di poter chiedere all'INPS se c'è un versamento del reddito di cittadinanza. Consideriamo anche che se il reddito di cittadinanza viene accreditato su un conto corrente, l'accesso diretto all'anagrafe tributaria porta all'emersione del conto corrente e i movimenti di questo conto corrente. Allora, c'è un ascoltatore che non so se facciamo in tempo ad avere in linea, ci chiede per i conti che sono anche presso altri paesi non UE, tanto per fare nomi e cognomi, in Svizzera. Mettiamo, allora, noi sappiamo che la Svizzera in realtà non è più quel paese di segreto bancario e imperscrutabile, perché oramai, anzi, c'è una sostanziale trasparenza anche con l'Agenzia delle Entrate che può serenamente avere a disposizione i dati. Però giustamente l'ascoltatore si chiede, sì, ma tutto questo ragionamento con l'ex coniuge vale anche per questi conti esteri? Sembrava di capire di no da quanto lei ci riferiva nella parte precedente. Guarda, avvocato, l'ha messo in linea Maurizio da Varese, appunto. Maurizio, buongiorno. Maurizio, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Allora, non ci sono figli minorenni, il più giovane ha 49 anni. Ah, ecco, vabbè. Siamo in un momento turbolento, tra cui mia moglie ha promesso che vorrebbe separarsi. Gliel'ha allora, promesso io, o l'ha minacciata, ma... Maurizio? Scusi, drammatizziamo. Sì, è una promessa. Insomma, state discutendo di un'eventuale separazione, Maurizio, quindi? No, sì, va bene come dice lei, però la cosa importante è questa. Io ho sempre detto di avere un conto scudato in Svizzera, dove io posso lavorare nel trading, perché in Italia le banche sono rimaste al tempo del Carlo Cudega. Allora, è quello che dico io, ha diritto eventualmente in fase di separazione la mia consorte di accedere e chiedere alla banca queste cose, ha diritto. Ecco, io quello che chiedo è questo. Ma magari ha diritto, Maurizio, il punto è l'accesso a questi conti, esatto. Tra l'altro, se è scudato dovrebbe essere trasparente anche per l'amministrazione finanziaria italiana. Esatto, Vaccaro. Avvocato. La vostra competenza è veramente meravigliosa. Sì, ormai faremo le trasmissioni da soli. No, il concetto è molto semplice. E se io faccio trading significa che sono conti operativi sotto il profilo del capitale che viene poi messo a rendita. E quindi non ci sono, immagino, versamenti successivi. Il flusso di denaro è un flusso di denaro che è come capitale che cresce. Chiaramente lo dichiaro e quindi quando vado a depositare la dichiarazione dei miei redditi, in qualche modo questo tipo di reddito viene già a galla. Nell'RW famoso, no? È un prospetto che è nella dichiarazione dei redditi, dove si mette appunto le consistenze all'estero. Poi dipende dal tribunale nel quale si svilupperà questo tipo di contenzioso, che tipo di norma, che tipo di soluzione pratica vado ad adottare, perché ci sono ancora oggi tribunali in Italia che non applicano il criterio di Roma e di Milano, che è quello della dichiarazione giurata. Esatto, di presentarsi con questo. Tutti i conti esatto, correnti, esatto. Cioè, praticamente spieghiamola questa cosa, avvocato, perché è molto importante. Importante, ci abbiamo dedicato anche delle trasmissioni. Oggi quando si decide di separarsi, i due coniugi devono presentarsi davanti al giudice, in questo caso però succede, mi pare di ricordare, esclusivamente a Roma-Milano, con un bel documento, una griglia molto sintetica dove si può ricostruire e portarsi appunto al giudice con questo documento molto dettagliato tutta la vita economica reciproca, e quindi un documento molto chiaro che, da cui si parte e che teoricamente non dovrebbe rendere necessario in un momento successivo appunto poi andare a chiedere un controllo sui conti, perché non si ha la sicurezza della condizione economica del coniuge che vuole diventare ex. Sì, è vero anche un'altra cosa, che l'obbligo di dichiarare i propri conti correnti, le giacenze medie e le giacenze di fine anno, laddove poi non venga dimostrato che non è stato correttamente adempiuto, porta quel coniuge in una situazione di essere guardato con sospetto. Per cui è uno svelamento che Roma l'ha fatto dal 2013, Milano si è immediatamente adeguata, ormai fa scuola in Italia perché altri tribunali ovviamente si sono adeguati a questo principio, ancora oggi incredibilmente non è stato recepito in una modifica semplicissima della norma a costo zero, ma questo incidente al tantum. Quindi questi tribunali che fanno scuola è ormai prassi. I coniugi che si separano devono dire al presidente, che poi emetterà i provvedimenti provvisori, urgenti, separativi e divorzili, cosa hanno come capitale e cosa hanno come redditualità, in modo da permettere poi al giudice di potersi orientare nel formulare un assegno che sia coerente con le loro necessità. Allora, ricordo, concludendo, un'altra cosa, che non è un provvedimento a vantaggio del coniuge più debole, ma è anche a vantaggio di chi ha, per esempio, quelle spese che comunque corrono. Poterle dichiarare in forma così chiara permette al giudice di ridurre l'assegno di mantenimento, perché non può non tener conto, per esempio, dell'intera spesa del mutuo, che invece nella forma reddituale viene dedotto solo in percentuale, che è quella che può essere dell'interesse poi passivo detratta dal fisco. Certo, sì, comprendo, cioè lei dice è meglio presentarsi in chiaro subito dall'inizio. Abbiamo 30 secondi, avvocato. Siamo partiti da un ascoltatore che diceva: ma perché non posso invece detrarre l'assegno l'assegno che pago per i figli? È così, punto e basta, mi viene da dire. È così, punto e basta, perché comunque i figli esistono sempre, perché comunque è un qualche cosa che la norma in termini fiscali riconosce come un non diritto. Perché non posso dedurre tutto l'intero mutuo in modo da dimostrare che quei soldi che spendo non fanno parte del mio reddito successivo? Sono quelle stranezze che l'ambito tributario rimane che dovremmo combattere, almeno noi che possiamo farlo. Avvocato Vaccaro, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Io direi che noi possiamo andare a casa per il weekend e tornare lunedì. Guarda, questi destra